Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sull'87.9 in FM. Potete ascoltarci in streaming attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Oggi voglio dire a tutti quelli che dicono che a Roma non c'è niente da fare e che la sera fa tutto schifo che si sbagliano. Venerdì sera sono stata allo Spartaco, c'è stato un concerto memorabile, protagonisti Los Tres Altos e i Che Sudaka, e elemento fondamentale che mi ha condotto e mi ha fatto essere tra i presenti di questa serata, alla quale non ho potuto che restare fino alle 3 di notte, è stata questa radio che ha diffuso la notizia di questo concerto attraverso la voce di Shibop, pietra miliare della Eschina del Soul, che ci segue fra un pochino oggi giovedì. E io voglio oggi ringraziare questa radio e in particolare Marta, perché proprio lei e la radio mi ci ha proposto questo concerto fichissimo, durante il quale anche io, che non ballo mai, non ho potuto resistere ascoltando il suono travolgente della cumbia romana, ho azzardato dei timidi e impacciati passi di danza. E quindi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, fidatevi dei suggerimenti che vengono condivisi con voi da queste voci, da questa radio. Radio Onda Rossa non sbaglia e voi non sbagliate se l'ascoltate e partecipate alle iniziative che vi proponiamo. E naturalmente questo viaggio della radio, che dura da quasi 40 anni, può continuare attraverso l'informazione, la musica e gli approfondimenti e le belle serate che la radio ci propone e che ci allietano e che non possono far altro che migliorare la nostra qualità di vita. E quindi, per queste ragioni e per molte altre ragioni, facciamoci tutti carico dei bisogni della radio e sostiniamola, perché ha bisogno di noi e noi di lei. E vi dico oggi che potete pure venirvi a prendere il caffè, perché abbiamo una macchinetta nuova e c'è tutto l'occorrente, e quindi vi possiamo offrire anche il caffè. Portatevi però lo zucchero. Il film di oggi è bellissimo, la colonna sonora è anche bella, interessante. È un film uscito da poco, Wild, grande regista, vincitore di Oscar. Poi vi raccontiamo un po' di cose su di lui e partiamo subito con la musica. Susie, door and let him in. Ooh, yeah, yeah, let him in now. Do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do. Stiamo ascoltando la colonna sonora, come ha detto prima Ottavia, di questo bel film che si chiama Wild, è un film del 2014. La colonna sonora è piena di grandi artisti, abbiamo Paul Simon e Simon and Garfunkel, insomma Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Portishead, Pat Metheny e altri, e questi che abbiamo appena ascoltato, che sono i Wings, il gruppo di Paul McCartney, che ha creato, sono nati nel 76, sono lui, la moglie e qualcun altro. E volevo dire una cosa particolare di questo gruppo, che ha suonato per 10 anni, che alla fine si è sciolto negli anni 80, proprio anzi nel 1980, perché dopo la morte di John Lennon, McCartney non voleva più fare concerti perché aveva paura di essere il prossimo ammazzato, e per questo motivo poi si è sciolto questo gruppo. Invece questo film è un film del 2014 diretto da Jean-Marc Vallée, il quale ha vinto un paio di Oscar, mi pare uno soltanto, Fede, per Dallas Buyers Club, è il regista anche di questa bellissima pellicola. Matthew McConaughey ha sicuramente vinto l'Oscar come miglior attore protagonista. Il film, ricordo un po' la trama, racconta la storia vera di Cheryl Strayed, che per uscire da una vita, diciamo, abbastanza difficile, decise di intraprendere a piedi, senza un soldo, un viaggio di 1100 miglia, mettendo alla prova se stessa e i propri limiti. È proprio tratto dal libro autobiografico di Cheryl Strayed ed è cosceneggiato da Nick Hornby, di cui magari dopo parleremo un po' se ci sarà tempo, e racconta questo lungo viaggio abbastanza solitario, a parte brevissimi, pochissimi incontri e a parte i ricordi che sono presenti, spesso sono quasi sempre solo presenti e fanno compagnia alla protagonista. E proprio la musica accompagna proprio questi flashback, e sì, nessun'altra parte del film, se non magari esce da un CD player o cose del genere. È vero, è vero. E in questo film la protagonista decide di partire per una delle più difficili traversate americane, la PCT, la Pacific Crest Trail, e nonostante la voglia costante di mollare, perché è una camminata veramente molto dura, riesce ad arrivare fino in fondo, ed è un bel film. Un po' a tratti mi ha ricordato sia Into the Wild che Tracks, ma in fondo è un'altra cosa. Proprio a proposito di Nick Hornby, stavo vedendo che un film che esce oggi in sala a Brooklyn ha la sua sceneggiatura, quindi torna. Sì, sì, ma lui ha sceneggiato un sacco di film, no, ha scritto un sacco di libri che sono diventati film, poi magari ne parliamo un po'. Questi erano un gruppo di quattro adolescenti, The Shangri-Las, che ha fatto musica, il brano si chiama I Can Never Go Home, e hanno fatto musica dal 63 al 68, ed erano quattro adolescenti del Queens di New York, un bel pezzo. E stavamo dicendo prima che questa trasmissione Tracce di Cinema ci permette di mettere della musica che magari non avremmo mai messo in altre occasioni, ma poi ha sempre il suo perché. Sì, è vero. Allietare il pomeriggio dei nostri ascoltatori. Poi oggi è particolarmente tranquillona, proprio mi piace un sacco. E per ritornare a parlare di Nick Hornby, nato il 17 aprile 1957, uno scrittore e sceneggiatore britannico. La sua fama ha avuto inizio con il libro autobiografico Febbre a 90 gradi, poi sono seguiti i romanzi Alta fedeltà del 95, Un ragazzo del 98, Come diventare buoni del 2001 e Non buttiamoci giù del 2005. Parecchi libri di Hornby sono diventati film di successo. Febbre a 90 gradi, interpretato da Colin Firth, è uscito nel 97, nel 2000 invece è uscito Alta fedeltà con John Cusack. Noi abbiamo fatto anche una trasmissione su questo film. About a Boy, Hugh Grant, vabbè, anche potevamo pure non dirlo. 2005 è uscita una versione cinematografica americanizzata di Febbre a 90 gradi con Jimmy Fallon nel ruolo di un accanito tifoso del Boston Red Sox e Drew Barrymore nel ruolo della sua fidanzata. Nel 2012 viene realizzato in Italia l'adattamento cinematografico dell'omonimo racconto di Hornby. È nata una star per la regia di Lucio Pellegrini con tutta una serie di attori più o meno commerciali, Rocco Papaleo, Luciana Littizzetto eccetera. Nel 2014 viene realizzato Non buttiamoci giù, adattamento dell'omonimo romanzo diretto da Pascal Chomel. E quindi insomma lui si dà da fare con il cinema, gli piace, ma gli piace anche molto la musica. Infatti ha scritto dei saggi, in particolare sulla musica pop. Nel 2002 ha pubblicato 31 canzoni, raccolta di saggi su 31 canzoni album da lui scelti, da mostri sacri come Bruce Springsteen e Bob Dylan, ad altri artisti del circuito indipendente come Annie Di Franco, e ad artisti pop da classica come Nelly Furtado, a canzoni note soltanto a Orbi stesso. E quindi insomma un viaggio anche questo da intraprendere, secondo me è abbastanza interessante. Io l'ho beccato un po' di tempo fa in libreria, non l'ho comprato, però ho letto un po' e secondo me lui è bravo, insomma è un grande appassionato di musica, potrebbe essere una buona lettura per chi ama la musica raccontata un po' da uno scrittore. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. E questo è un noto brano senza tempo. Stiamo parlando di Suzanne di Leonard Cohen, noto cantautore, uno dei più bravi diciamo in Nord America, canadese, nato nel 1934 a Montreal, E si dice di questa canzone che, vabbè, oltre che l'hanno fatta in 3000 anche De André, John Baez, e ripresa in 3000 anche i Rem hanno preso pezzi di questa canzone e così via, si dice che è ispirata a un'amica di Leonard Cohen, Suzanne Verdal, ballerina, e al quale Leonard andava sempre a fare visita, e si ipotizzava che potesse aver avuto dei rapporti con questa Suzanne. Invece, con un'intervista fatta proprio a lei, pare proprio di no. E invece, parlando del tema principale di questo film, che è questo lungo viaggio che intraprende la protagonista, è un percorso che si svolge per oltre 4.000 chilometri sulla costa ovest degli Stati Uniti, che lei non ha percorso tutto, ovviamente non ha fatto 4.000 chilometri, ma 1.700 chilometri, che comunque non sono pochi, e nelle terre selvagge dal Mojave alla California, all'Oregon, il Pacific Crest Trail, ovvero il cammino percorso da Cheryl in 94 giorni, si distende attraverso 25 foreste e 7 parchi nazionali, raggiungendo i 4.000 piedi di altezza nella Sierra Nevada. Scende poi a livello del mare, passando per luoghi come il deserto del Mojave, come dicevo, il Sequoia National Park, il Tuolumne Meadows. Tuolumne Meadows. Eccolo, l'americano che è in lui, esce fuori. Il territorio vulcanico del Mount Hood e del Mount Rainier, e ancora le foreste del lago Crater, fino ad arrivare al Bridge of the Gods, il ponte sospeso che attraversa il Columbia River. Alcuni di questi posti ho avuto la fortuna di percorrerli proprio con lo zainone come la protagonista. E ci tengo a dire solo una cosa, molto, che oltre la natura è così bella, così è incredibile, il granito, i pini leoricati che ho visto, una parte proprio di questo percorso, la parte tra il Nevada e la California, che hai l'impressione di non stare negli Stati Uniti, ma è un continente bellissimo, meraviglioso, che per gran parte del suo tempo è stato vissuto da un'altra tipologia di persone che lo statunitense medio, e mi ha aperto veramente negli occhi, ancora le vedo questi paesaggi meravigliosi. Sì, poi non dategli troppo retta, avrà fatto tipo, non so, 5 minuti di cammino e poi si sarà seduto a bere del vino sotto un pino. No, 70 miglia dove averle fatte. Sì, sì, è vero. Ci crediamo, dai. Io vorrei salutare Fiore, che è costretta a casa, ma almeno ci ascolta, insomma. Sì, questo, c'è questo di buono. Abbasso la varicella. walk up to the preacher. And let us say I do. Then you know you have me. And I know I'll have you too. Don't be cruel. E stiamo ascoltando la colonna sonora del film Wild, e questa era Don't Be Cruel, noto brano cantato da Elvis Presley, composto da Elvis Presley e cantato da Elvis Presley, ma in questo caso è eseguito da Billy Swan, un autore e cantante americano, e noto per il fatto per il brano rockabilly del 74 I Can Help. Quindi non è perché prima avevi detto era sua, invece no. No, mi sono informato meglio. Ti sei informato meglio. Però gli assomiglia un po' a Elvis, eh? Ci ha anche lavorato insieme, bisogna dire. Oh, questo brano ci porta al nostro ospite della settimana, che è Federico Pedroni. Dopo esattamente un anno torna a Tracce di Cinema. Ci sei, Fede? Ci sono, buonasera, buongiorno. Come stai? Bene, bene, grazie. Sentivo, stavo cercando di registrare informazioni su Billy Swan. Di cui nulla so. Devo dire che questa prima mezz'ora è andata piuttosto bene con la musica, e infatti questo film l'abbiamo scelto proprio per la sua colonna sonora. E vuoi premettere tu il tuo gradimento rispetto a questo film, Fede? Ma il mio gradimento è relativo rispetto a questo film. Sono quelle operazioni, diciamo, che sono fatte, volute da un'attrice con una bella storia per mettere in scena la sforzo titanico contro la natura, se stessi, insomma, cioè sono quelle cose, quelle performance. La Witherspoon non ha vinto l'Oscar, ma è stata nominata per un film che ha avuto appunto due nomination per le interpretazioni femminili. Vallée veniva da due Oscar per il film precedente avuti agli attori per Dallas Buyers Club. Non lo so, queste performance al limite, non voglio parlare di Revenant che c'entra relativamente poco, ma insomma diciamo queste avventure atletiche mi entusiasmano fino a un certo punto, però insomma l'utilizzo della musica nel film è invece un utilizzo particolarmente interessante, secondo me, quindi la scelta, visto che non stiamo facendo così una tavola rotonda critica su Wild o su Vallée, ma sull'utilizzo della musica e sulla colonna sonora, mi sembra una scelta piuttosto non convenzionale, perché utilizza tantissima roba, però come dicono quelli bravi, in maniera sempre diegetica, cioè la infila dentro nelle scene, non solo come commento, fa da sottolineatura agli stati d'animo della protagonista e le accompagna in tutto quello che le succede, senza farne appunto un uso retorico. Ma Vallée su questo è piuttosto furbo e bravo, insomma, lo aveva fatto già in Crazy, che era il suo primo film, almeno quello che è il primo che è arrivato da noi in Italia, in cui c'era un utilizzo della colonna sonora molto curioso e intelligente. Si vede che uno che ama la musica e che la sa usare. Sì. Per esempio di questa abbiamo messo Suzanne di Leonard Cohen, che è un classico, però ci siamo ormai anche... non c'è un film senza Leonard Cohen, io lo adoro, però l'abuso è dietro l'angolo. Però per esempio non abbiamo inserito in puntata Pat Metheny o Bruce Springsteen, che pure erano dentro la colonna sonora. Beh, sì, la colonna sonora è varissima, proprio per questa scelta che diciamo permette una maggiore diversificazione passione, nel senso che non essendo una musica di commento o una musica, diciamo, di sottolineatura romantico-enfatica di quello che succede, bensì cose che escono dalle radio, dalle televisioni, dalle stanze accanto, cioè che entrano sempre nel film, la scelta è fare di una cosa che accompagni con cose diversissime appunto gli stati d'animo della protagonista, ma inserendola all'interno. Quindi c'è appunto da Billy Swan che fa Elvis, a Cohen, a Shangri-La's, Hollis, Lucinda Williams, che è la cosa forse che c'entra di più perché è la cosa che si sposa meglio col paesaggio, e poi l'utilizzo del tema del Condor Pasa di Simon & Garfunkel, che c'è dall'inizio e che ritorna più volte nel film, anche di Simon e Garfunkel. Per esempio quella non l'abbiamo inserita, ne abbiamo inserita un'altra perché sono due le loro canzoni. Sì, c'è anche un Warbound che è più bella come canzone tra l'altro, e quindi avete fatto bene a inserirla. Però insomma il Condor Pasa la usa proprio come, sì, visto come che c'è tutto quel tema del flauto un po' andino, ed evocativo, ricorda, c'è sempre nei momenti anche un po' di malinconia in cui lei ripensa alla mamma e parte il flauto di Pan, insomma la musica andina. Tra l'altro, Ottavia, tu avevi trovato rispetto al Condor Pasa delle buone notizie, se non sbaglio. Ma no, ma sì, ma giusto per parlare, è una zarzuela, non so se si dice così, peruviana molto molto nota in Perù, con una storia antichissima, che fu composta da un peruviano, Daniel Alomia Robles, nel 1913, quindi insomma ha una storia vecchissima, ancestrale, ed è basata sulla musica tradizionale andina del Perù, e fu dichiarata patrimonio culturale della nazione nel 2004, quindi insomma ha un suo perché. Sì. Senti Fede, tornando a imparano un sacco di cose ascoltando. Sì, cioè, non ho capito. Si imparano un sacco di cose, ha detto ascoltando. Fede, tornando a Jean-Marc, si disimpara. Diciamo sul patrimonio culturale del Perù è difficile essere ferrati, diciamo. Io volevo tornare invece a Jean-Marc Vallée, perché i film suoi che ho visto sono, se non sbaglio, 3-4, ed è un autore molto variegato, lo trovo. Tra l'altro citavi Dallas Buyers Club, che mi sa che lo inserì tra i 5 migliori film di quell'anno, figurati. Bah, figurati, lo dico io. No, va bene, comunque no, Vallée, io avevo amato molto appunto il suo primo film Crazy, che era una storia di un coming of age canadese degli anni 90, su un giovane che doveva affrontare la propria sessualità e poi appunto omosessualità, in ambiente borghese tradizionale, non come possono essere repressivi canadesi, quindi all'acqua di rose, però insomma era una storia abbastanza semplice ma molto vitale, cioè aveva un certo vitalismo molto curioso e aveva un utilizzo veramente fantastico della musica. Lì c'era, che lui era un fissato, quindi c'era il gusto del vinile, un gusto vintage sugli anni 90, c'erano le copertine di Bowie eccetera eccetera, e l'avevo trovato bello. E era molto strano anche un film successivo che aveva sempre presentato a Venezia, mi sa in Orizzonti ma non me lo ricordo, che si chiamava Café de Flore, che era un film assurdo con Vanessa Paradis, che prendeva delle derive quasi surreali, misticheggianti, ma con una verve narrativa niente male. Cioè mi interessava molto quando lo vedevo come un regista anche molto, molto libero, molto estroverso, ecco, nella sua messa in scena. I due film americani che gli hanno dato sicuramente più visibilità e più fama, io li amo meno, però appunto Wild per le ragioni che ho detto prima, Dallas Buyers Club perché mi sembra un film molto molto, come dire, un pochino vittima, no, molto molto è troppo, però un po' vittima di una certa retorica enfatica che non amo particolarmente, però è sicuramente un autore di pancia, e l'utilizzo della musica secondo me lo definisce molto bene, cioè secondo me è una delle cose che lui sa fare bene. Qua in Wild sfrutta anche una certa, come dire, in questa reiterazione è anche complicato fare un film su una che cammina per migliaia di chilometri incontrando persone. Ha avuto, appunto, usa la musica anche per rompere, usa attraverso i flashback, la musica si sente quasi sempre nei flashback, usa quindi i flashback e la musica per dare ritmo a una narrazione che sennò sarebbe abbastanza, come dire, pianeggiante, a differenza del percorso che lei fa, e utilizza però una vecchia volpe come Nick Hornby, che ha scritto la sceneggiatura e gli ha dato una struttura narrativa piuttosto solida, insomma. Poi Hornby adesso si sta divertendo molto a scrivere sceneggiature, cosa stavamo che faceva di meno, dicendo di Brooklyn, che esce oggi e c'è il suo zampino. Esattamente, sì, aveva cominciato, penso, An Education penso fosse il primo che lui avesse firmato direttamente, cioè non che non fosse una cosa tratta dai suoi romanzi ma fosse una sceneggiatura originale, che era quel film di Lone Scherfig, sempre con Carey Mulligan, e poi penso che appunto adesso Wild e Brooklyn adesso, e quindi insomma mi sa che si mette a fare lo sceneggiatore. Invece stavo ripensando a quanto dicevi sul filmare una donna che attraversa la natura, dici, a quel punto uno si vede un National Geographic, però il rischio è sempre quello, sì. Però poi insomma, cioè, però il grande cinema che ci dà natura selvaggia comunque ha sempre delle sue suggestioni, assolutamente. E poi è un fatto, qua stiamo sempre parlando di quanto una cosa ti arrivi, anche cioè, un film che io amai moltissimo era Into the Wild, cui amai moltissimo anche la colonna sonora, di Eddie Vedder. Era un film che correva ogni 5 minuti il rischio National Geographic, volendo, però a me quello personalmente invece aveva coinvolto moltissimo, insomma. Qua si tratta sempre, poi sono tutti libri tratti da esperienze in prima persona, quello era appunto tratto dal libro di Krakauer sul personaggio, questo è tratto invece dalle memorie proprio di Cheryl Strait, che ha fatto questo percorso di quasi purificazione. Sono comunque appunto dei film esperienziali, diciamo, insomma, fatti proprio su il trovarsi se stesso attraverso lo sforzo assoluto, e comunque sai, insomma, National Geographic è in agguato, ma i paesaggi americani fanno il cinema dagli anni zero, quindi cioè sono 120 anni che il cinema americano riesce a crearci suggestioni con i suoi paesaggi incredibili, insomma. Anche il western comunque nasce da una suggestione paesaggistica che è sempre molto viva e vitale, insomma, quindi figuriamoci se non stiamo a guardare una giovane donna che dal Minnesota arriva all'Oregon attraverso questa Pacific Crest Trail. Cioè, lo sforzo è immane, ma sotto sotto, mentre lo vediamo, vorremmo sempre essere al posto suo. Sì, però sai che cosa, Federico, che cioè io per esempio quando ho visto il film non ho avuto la sensazione di questa meraviglia dei paesaggi, anzi li ho trovati abbastanza una fotografia abbastanza ostile di quello di quello che poteva essere fotografato. L'unica fotografia, l'unica immagine che ho sentito mia, che ho sentito che mi ha dato quiete, è stata l'immagine finale quando lei incontra il bambino in quel bosco pieno di felci, lussureggiante. Poi il resto dei paesaggi l'ho trovato angoscioso e ostile, un po' come era l'animo della protagonista, che insomma come hai detto tu, percorreva questo percorso proprio per fare una prova di forza e per catartica per quanto riguarda, no, la sua storia passata, e per ricominciare verso una nuova vita. Però scusami. Sì. No, tu hai perfettamente ragione, io sono d'accordissimo con te, ho fatto un esempio. Quindi non ho trovato che ha ammiccato il regista. No, ha ammiccato, è la potenza evocativa del paesaggio, non vuol dire fare, cioè non intendevo i campi di violette nella collina senese. No, insomma, neanch'io, figuriamoci, non te ne intendevo È una natura ostilissima, come era ostilissima quella appunto dell'Alaska di Into the Wild, o come era molto dura quella di Trex australiana percorsa da Miyawasikoska in un altro film di poco tempo fa. Cioè sono tutte delle prove, come dire, di messa alla prova, quindi la natura in realtà è un fatto ostile, ma il terribile, adesso non voglio fare l'ex studente di filosofia che diventa pallosissimo, ma il concetto della natura che sia magnifica e terribile nello stesso momento è una cosa classica dal romanticismo in poi. È assolutamente vero che sia una cosa che sfiora, cioè è dall'impressione appunto di questa natura titanica e durissima, che è dallo stesso tempo meravigliosa e spaventosissima, insomma, come tipo di cosa, cioè, anche perché poi stare perduti in un mezzo deserto a migliaia di miglia da qualsiasi villaggio è un'esperienza che terrorizza, se solo se ti viene in mente, quindi è chiaro che non si fa la passeggiatina. Invece, a proposito di Valletti, volevo parlare un attimo con te, ti volevo fare un'ultima domanda e poi ti lasciamo libero ai tuoi impegni. Lui, oltre, vabbè, ai due premi Oscar che ha ricevuto, no? Non per la migliore regia, ma insomma ai suoi attori, ai suoi protagonisti, ha ricevuto anche un premio Oscar per un film che mi pare si chiamasse The Young Victoria, per i costumi, un film in costume del 2010. Bravissima, mi pare, adesso non sono sicura delle date, nulla non sono sicura però quello che ti volevo chiedere è che Vallée è proprio il prototipo del regista americano, nel senso che lui non è un autore, perché lui non scrive le sceneggiature, lui è un esecutore, è un regista, è uno che riceve una sceneggiatura e poi fa il film. Sì, lui appunto il suo primo film Crazy l'aveva scritto, il suo primo lungometraggio Crazy l'aveva scritto lui, che è appunto un film canadese, e così come Café de Flore, cioè i due che ti avevo citato prima, che sono quelli che paradossalmente mi sono piaciuti di più, sono due film che ha sceneggiato. Però essendo uno che ha un'attenzione per la messa in scena, che è un'attenzione, e qua mi raccomando, cioè poi un fatto di gusti, però questo non vuole essere affatto una critica, una messa in scena molto empatica, è il tipico film che funziona nel cinema americano. Infatti lui ha fatto dei film in Canada da lui scritti, e quindi evidentemente forse più personali, insomma, comunque in ogni caso che erano idee originali, ma che hanno attratto l'attenzione degli studios americani, che gli hanno invece commissionato dei film che hanno sempre poi portato a casa quello che dovevano portare, insomma. Sì, era semplicemente una riflessione sul fatto che in Italia questa cosa non esiste, nel senso che un regista in Italia scrive il film, se lo gira, spesso se lo produce anche, spesso fa anche l'attore, e no, è una cosa strana, non esiste questa visione del regista tecnico, no, che viene scelto per le sue doti registiche, ecco. Abbiamo due ore per parlare? No, no, era semplicemente una riflessione con te, se sei d'accordo su questo. Ciao. Ah, recuperiamolo. Dai. Vabbè, l'abbiamo riprovato a chiamare sul fisso e sul cellulare, ma non da segni di vita. Federico non c'è più. No. Federico non c'è più. Ci aveva promesso altre due ore di chiacchierata, ma alla fine ha desistito. Comunque il nostro numero è 0649 1750. Federico, se ci stai ascoltando, se sei stai ascoltando la radio, puoi richiamarci tu quando decidi che ci vuoi parlare ancora. Intanto noi continuiamo. Torniamo con la musica. Wild. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, E questi erano i grandi Simon & Garfunkel, e questo brano si chiama Homeward Bound, è autobiografico di Paul Simon, l'ha scritta lui. Dopo l'insuccesso del primo album Wednesday Morning si è trasferito in Inghilterra per fare un po' di soldi, e l'ha scritto su una panchina della stazione di Widnes. Oh, siamo tornati in collegamento con Federico, che dopo aver chiesto 2 ore di tempo per parlare della regia in Italia è caduto nel nulla. Mi sono cascato da solo. Sì, sì, a questo punto però Fede, ti chiediamo, visto sui saluti ci tenevamo, e poi sì, se in questo anno, visto che è passato un anno preciso dal tuo ultimo intervento a Tracce di Cinema, se nel corso di questo anno hai avuto colonne sonore da segnalarci che ti vengono in mente di film che hai visto. Oh mamma, sono domande che vanno fatte con largo anticipo, perché adesso non mi viene in mente. Però ce le puoi scrivere alle brutte. Casomai ve la scrivo, come diceva Verdone. Ai, Federico, non sei pronto. No, non sono pronto, anche perché è più di un anno fa. L'ultima colonna sonora su cui veramente ho perso la testa è Inherent Vice di Paul Thomas Anderson, ma diciamo... è vecchia. Vabbè, ma noi andiamo, pensa, l'ultima era stata Easy Rider, figurati. Ah vabbè, comunque no, è vecchia, è vecchia rispetto al fatto che l'avrete già mai forse detta, insomma. Comunque, se non l'avete mai segnalata, Inherent Vice, vizio di forma utilizzo, okay, meraviglioso, perfetto, della musica, come spesso Paul Thomas Anderson fa. E poi tra l'altro una delle protagoniste è la nostra protagonista del film di oggi, se non sbaglio. Sì, ci sono tanti attori, tra cui c'è anche lei, c'è anche Reese Witherspoon, ma soprattutto c'è appunto una fantastica Journey Through the Past di Neil Young che... Ce la guardiamo, grande Fede! Grazie. Un abbraccio Fede, alla prossima! Ciao, alla prossima, ciao! So so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. E stiamo ascoltando la colonna sonora del film Wild, e questi erano i Portishead con il brano famosissimo Glory Box. E giusto un paio di curiosità, che il nome dei Portishead viene proprio da una cittadina vicino a Bristol, di cui uno dei musicisti che ha fondato questa band, Geoff Barrow, era proprio, abitava lì. Sì, e il brano è tratto dal loro disco di maggiore successo, che è Dummy, che diciamo ha segnato proprio la storia del trip hop di quegli anni, mi pare che sia uscito nel 94, sì, 94, esatto. E la voce di Beth Gibbon ha spaccato, ha venduto milioni di copie, anche perché è un brano bellissimo. La voce è di, scusami, ti ho parlato sopra, Beth Gibbons. Sì, bellissima. E invece io vi volevo raccontare un piccolo aneddoto che ho trovato curioso riguardo al film. Cioè, la scena iniziale del film è proprio la protagonista che sta sulla cima di una montagna con sotto un dirupo, l'inferno proprio, si toglie le scarpe e ha i piedi feriti da questa camminata. Non vi dico perché magari non avete visto il film e lo andate a vedere. E cioè, in questa scena in cui lei proprio si toglie questa scarpa e i calzini, è dolorante, smadonna di brutto, e le casca una degli stivaletti per camminare, proprio questa frana giù, insomma, nella montagna. E poi getta anche, per in un gesto di rabbia, anche l'altra scarpa. E allora Chris Kesting di Camas, Washington, ha trovato uno degli stivali di Reese Witherspoon che è stato appunto gettato dalla montagna mentre lei gira questa scena, e quindi tutto successo dal vero, lo scarpozzino non era legato a una corda, a nulla. Vorrebbe, ha comunicato del suo desiderio di avere un autografo da parte della protagonista, e quindi la troupe del film ha violato uno delle regole fondamentali, non inquinare, che riguardano la US National Forest, leave no trace, e invece hanno lasciato una traccia abbandonando due scarponcini in quel posto meraviglioso. Senti, Attica Blues è arrivata, quindi ci salutiamo con un ultimo brano. Ricordi tu le cose? Sì, e ricordo che, come vi dicevo all'inizio, questa radio vi sostiene e deve essere sostenuta. Chi può deve, se se la sente, contribuire alla vita di questa radio che sta per compiere 40 anni e che è la voce di chi non ha voce e la voce di chi la pensa diversamente rispetto a tutto quello che viene dato a riguardo di informazione ed è controinformazione. E potete lasciare un vostro contributo attraverso il conto corrente postale 61804001. Ho un occhio, è lontanissimo il foglio. Bravissima. Io non mi ricordo nulla. Intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Voce 56001 85, Roma. Ripeto, conto corrente postale 61804001. Potete farlo anche da casa attraverso il sito della radio, cioè il pulsante sostieni, è molto semplice, basta avere una carta di credito e si può lasciare un contributo alla radio che ha molto bisogno del vostro di essere sostenuta dagli ascoltatori in questo momento che sta attraversando molto difficile, e quindi per la sua sopravvivenza e anche per la sopravvivenza e la felicità di chi l'ascolta deve essere sostenuta. L'indirizzo di posta elettronica tracce di cinema@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. Con che vogliamo salutarci, David? Allora, ci salutiamo con un brano che non è nella colonna sonora originale, ma si può ascoltare durante il film, che è What's Up, la versione del pianoforte di Linda Perry, ovvero dei Four Non Blondes. up that great big hill of hope. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I start feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs. Destination.